Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. L'amore vince sempre sull'invidia e sull'odio. Quando Renzi andò al governo, iniziò a realizzare un programma che non era il programma del Partito Democratico. Sì, no, veramente non era neanche il suo, era quello di Berlusconi. La Costituzione è di tutti e non può essere a disposizione di una maggioranza di governo. Oltretutto, nel caso in esame, non si tratta neppure di una maggioranza che abbia vinto le elezioni. Per come è scritta questa riforma, secondo me basterebbe la lettura per convincersi a votare no. Addirittura la simpaticissima ministro Boschi ha detto che se passa la riforma costituzionale si potrà combattere meglio il terrorismo. Cioè, noi siamo arrivati al punto che se uno non gli piace questo pastrocchio, lo accuseranno di essere complice dell'ISIS. Sono i sorrisini di D'Alema. Voi più che sulle parole dovete concentrarvi sui sorrisini, l'ironia amara di D'Alema, il più grande oppositore a Renzi in questo momento, è il più grande strenuo oppositore di Matteo Renzi, è Massimo D'Alema. Allora, cari ascoltatori, sono le 6:31 minuti, questa è 24 mattino, ci siamo anche oggi in diretta fino alle 9:30. Tutta anche la prossima settimana, il 29 luglio, poi ci fermiamo un po', il mese di agosto vi lasciamo senza il Parlamento, così siete allegri, vi svegliate alle 6:30 e vagate come zombie. No, cosa ascoltiamo adesso? Oh, disperati. Gente che sveglia la moglie, cosa ascolto adesso? E va bene. Sono cose che capitano, mi verrebbe da dire. Allora, sì, la questione di D'Alema in realtà è riassumibile benissimo nel graffio di Iena oggi sulla stampa. E tutto il mondo sta esplodendo e noi qui a combattere col nostro miserabile Italicum. Ragazzi, soprattutto in Turchia sta succedendo delle cose, si direbbe in altri tempi, se non ci fosse solo da piangere e non da ridere, cose turche. Perché Erdogan ha in pratica licenziato docenti, professori, insegnanti, universitari, statali, imam, quelli vicini a quelli che lui considera i fautori del golpe. Poi questo golpe, qualcuno dice, sempre più persone dicono, ma non è che è stato un po' architettato per dare poi una stretta al molto molto autoritaria a quello che è il potere. Guardate, oggi libero, come si suol dire in gergo, la tocca piano. Erdogan è come Hitler. Questo in prima pagina, ecco. Forse ci sono sicuramente delle esagerazioni, ma guardate che quello che sta succedendo è incredibile. Soprattutto raccontano gli inviati che sempre più si sta imponendo giorno dopo giorno in maniera silente la legge islamica, con le donne guardate un po' strane da uomini barbuti che girano perché magari il loro abbigliamento non è molto consono. Questa Turchia qualcuno la vorrebbe in Europa. Mamma mia. Mamma mia. Allora, sono le 6:33 minuti. Io ho messo Massimo D'Alema in apertura salutando Lorenzo Nespoli, che ha fatto questa scelta e quindi è assolutamente sua la responsabilità, e lo ha fatto per Luca Dini, perché lo facciamo, lo abbiamo fatto per lui, per il nostro direttore di Vanity Fair. Caro Luca, buongiorno. Buongiorno. Non ti abbiamo fatto riaddormentare con Massimo D'Alema? No, secondo me ti abbiamo svegliato, anzi... Mi avete svegliato. Cioè, ti abbiamo anche un po' innervosito, di la verità. No, dai, no. No, dai. Dai. Mi mancherà quando starà zitto. Infatti. Non so quando, però. Non so quando, ma vedrai che adesso, appunto, che starà zitto, ti dice: ma perché non c'è un D'Alema con i suoi sorrisini ironici che critica, che attacca Renzi? Poi ho trovato veramente il culmine della perfidia è la simpaticissima Boschi. La simpaticissima. Dietro quel simpaticissima si nascondono, diciamo, un 10-15 sostantivi e aggettivi di ispirazione piuttosto maschilista. Dici, la simpaticissima. Vabbè. Vabbè, insomma, insieme a Luca Dini abbiamo il ritorno della nostra rossa. E da mezzanotte la radio diventa... Ma eccoci, ma adorati, mi siete mancati. Certo, mi siete mancati moltissimo. Ma anche tu, ma tutto agosto tanto sarai qui a Radio Paola. Quindi... Certo, assolutamente. Buongiorno direttore, buongiorno Lino. Ovviamente non lascerò un secondo la messa in onda tutta notte, assolutamente, per 6 ore, ogni giorno, sabato e domenica inclusi. Sì, hai visto. Bene, hai visto. Dopo che ho detto la mia di questa mattina, ma è assolutamente una cosa positiva. Tutto il mese d'agosto, ora lo possiamo annunciare, Paola Saluzzi sarà qui a Radio Paola. No, scherzo, ovviamente questo si scherza, ma però sarebbe stato bello un ingaggio così al volo. Per radio che possono parlare e come se parlano, non come capita altrove, dove nell'arco di per quanto mi riguarda, insomma, per quanto ci riguarda col nostro lavoro, nell'arco di 45 minuti vedi passare sotto il naso agenzie per cui si fermano le radio, si chiudono le televisioni, sempre in Turchia, fermano le scuole, i presidi non esistono più, gli imam neanche loro, i rettori universitari arrivederci, e vediamo quando appunto saranno tutte belle velate, coperte come delle mummie, le donne che giustamente sono guardate malissimo. Ricordiamo che Erdogan ha avuto parole nei confronti del genere femminile sempre molto invitanti all'autonomia delle donne, alla possibilità delle donne di lavorare. Auguri, tanti auguri. A un passo da noi, e qualcuno vorrebbe da noi, ma infatti vorrei partire proprio da questo, mentre il nostro Peter Bescapè può aprire il Parlamento. Dai, c'è una notizia però ferale, ragazzi, dalle agenzie, no? Le agenzie dicono che è morto a 81 anni Gary Marshall. Io non... Sì, regista di Pretty Woman. E creatore di Happy Days, Luca. Happy Days. È una notizia. Sì, 81 anni, lo dicono i familiari. Questa è una notizia proprio di pochi minuti fa. Spesi bene, se questo signore ci ha fatto sognare, ci ha fatto divertire, spesi bene. Come no, assolutamente. Allora, eccolo lì. Mamma mia, che momenti. Ma sapete, tra l'altro, che... Ma tu non eri nato, dai. Io non ero nato, vabbè, però dai, adesso, io sono del 70. Di che anni è Happy Days, effettivamente? No, allora eri nato, dai. È il Sì, era in quegli 70, anni lì. Secondo me dal 76 in poi. Ecco, dai, no, cioè non lo vedevo a 5 anni, vedevo più Heidi e Dolce Remy, però ti assicuro che poi dopo, quando era un po' più... Tra l'altro, ma vedete che è ricomparso Chucky, ve lo ricordate? Certo, ed è lì con Trump che lotta, si è presentato, sì, vabbè, questa cos'è Heidi, vabbè, adesso stiamo facendo il karaoke delle... Chucky è comparso lì alla convention di Cleveland. Ma forse l'unica cosa comparsa in modo... Vabbè, adesso parliamo anche di quello, però prima vorrei capire la Turchia. Caro direttore, che dobbiamo fare con questa Turchia? Intanto io non voglio proprio sentire nessuno che dice questa Turchia in Europa, almeno soprattutto questa, o no? Ma sai, tanto va sulla strada di altri gloriosi alleati nostri, dell'Occidente, come l'Arabia Saudita, non è che... Siano posti tanto diversi. Che almeno non facciamo entrare nell'Unione Europea, però. Ah no, ma secondo me a questo punto guarda neanche la Turchia. Mi pare che il progetto sia piuttosto tramontato. E poi l'altra cosa che mi sentirei di dire, vorrei per favore non sentire più qualcuno, siccome in questi giorni diverse persone me l'hanno detto, ecco, vedi che cosa succede quando si tocca la Costituzione. Per favore, cioè io capisco possa stare sul cavolo a tante persone, però non paragoniamo veramente cose che non sono neanche lontanamente paragonabili. No, perché c'è qualcuno, qualcuno che ha paragonato la riforma costituzionale in Italia, no? Giusto per... Sì, questo signore Erdogan era così in culla, diciamo, già. Non è che... È sempre stato un autoritario, si è a volte vagamente mascherato da più tollerante, sì, ma sì. Si fa per dire, voglio dire. È uno che... Già da giovanissimo agli esordi in politica diceva le moschee saranno le nostre caserne. Sì, no, no, è vero. No, ma soprattutto per carità, tutti questi paragoni sono veramente stupidate. E, cara Paola, però certo, soprattutto tu, anche da donna, vedere, leggere oggi i giornali non ti farà molto bene, leggere di veramente queste ronde islamiche di persone che dicono cominciate, fermano le donne vestite in maniera laica, in maniera normale, in maniera occidentale, a dire sono gli ultimi giorni che andrete in giro così. Così, perché poi invitante, ma non passasse poi, no, è gravissimo che qualcuno ti avvicini e ti dica come devi andare vestita, ma questa è la punta dell'iceberg, evidentemente, di atteggiamenti e di comportamenti che sì, concordo con quanto il direttore sta dicendo, quando senti dire siamo in dittatura, ma non mi riferisco solo al tempo attuale, mi riferisco anche a tempi, insomma, ci portiamo un attimo indietro, da più parti, no? Si sente dire questa è una dittatura in generale. Ecco, magari assaggiare e provare che cosa voglia dire. Abbiamo rispetto per chi la vive davvero, Per chi si ritrova dall'oggi al domani a viverla davvero. Uno su tutti, bastino le immagini di delle persone, prevalentemente soldati o comunque gente che faccia parte di apparati dell'esercito, che sono ammassati come in fotografie che si sono viste nei peggiori archivi, cioè nei migliori archivi che raccontino la peggiore storia. Abbiamo visto foto di uomini ammassati come non so, come animali, fanno pena gli animali ammassati così, ecco, quelli sono uomini. Ci sono stati i paragoni ieri il manifesto paragonava proprio ai lager, no? È chiaro, esatto, che i paragoni vengono titolo, vengono utilizzati in maniera molto forte. L'assenza di libertà è quella. Detto ciò, aspettiamo e vediamo. No, non credo che ci sia un interesse né da parte ovviamente dell'Europa a far entrare in Europa, ma né da parte degli stessi a entrare in Europa, perché le Europe si creano da altre parti, insomma, nel senso altri gruppi si creano da altre parti. Però stiamo vivendo tutto questo. Sì. E lo stiamo vivendo alle nostre porte, stiamo vivendo questa cosa che ci riguarda molto molto da vicino, come molto da vicino ci riguarda la Germania, dove questo 17enne afghano, lasciando un video, ha detto vado a colpire i tedeschi, insomma vado a colpire. E ha colpito con un'ascia, un'accetta, lasciando un testamento in non so se in lingua, se in arabo, dicendo, o in lingua afghana forse, in Pashtun, non lo so, ha parlato dicendo voglio colpire tutti i tedeschi. E poi questo è l'audio. Poi Nizza dove ci sono anche sei morti italiani. Caro Lucadini, tra l'altro su Nizza oggi so che anche voi, Vanity Fair, ne parlate. C'è questa interpretazione di Michele Serra, no? A dire ci vorrebbe... Si incastra molto con quello che stavamo dicendo adesso. Dice la linea di Michele Serra, dice ci vorrebbe un po' più di felicità per combattere questa guerra anomala, questa guerra strana. Perché un po' più di felicità? Contro quelli che lui chiama gli zombie. Questi sono zombie, in effetti. Felicità proprio perché noi occidentali, europei soprattutto, viviamo da 70 anni, che ci piaccia o no, anche se ce lo dimentichiamo, in democrazia, libertà, benessere, servizi sociali, sanità che comunque c'è, è una serie di servizi che sono l'eccezione, non la regola, nella storia del mondo e nel resto del mondo. E quindi il modo migliore, invece di sputarsi sopra le cose che abbiamo, e che non è di cui non ci dobbiamo vergognare perché sono state conquistate e difese con sacrifici e prezzi da pagare, invece di sputarci sopra bisogna ricordarsene sempre, tenerle care ed esserne felici, perché è l'unica cosa che ci difende da chi, non avendole, non... le valuta zero come valuta zero la vita. Sì, e vuole magari con gesti di questo genere distruggerle, pensa di distruggerle, pensa di colpirle. Beh, non è male come lettura questa, Paola, eh? Godere di quello che abbiamo e rivendicarlo come conquiste che nessuno ci può toccare. Che diciamo sono costate, perché se poi ti vengono a mancare o se poi vengono qualcuno in termini epuratori le fa... desidera azzerarle, ecco lì ti accorgi di eravamo felici e non lo sapevamo, tra virgolette, no? È chiaro. E stabilito che quella felicità costa, è costata fatica, ne costerà ancora, che i tempi sono stati brutti e non è perfetta, perché le cose perfette non appartengono, come è chiaro, a questo mondo, però accorgersi, cioè girarsi, guardare e ricordarsi che cosa abbiamo, quanto sia costato. E questo può essere già un buon modo di ricominciare o di aiutare e aiutarsi a considerare le cose in altra maniera. Ecco, questo potrebbe essere un'ottima, non a caso la scrive insomma una grande firma, potrebbe essere un ottimo modo di ricominciare o di pensare in modo diverso. Godere delle nostre felicità e rivendicarle, beh, non è male. Rivendicarle contro chi ce le vuole annullare quotidianamente. Certo, da dire che ci sono vari profili, varie interviste, vari approfondimenti sui giornali anche su come cercare di intercettare questi che vengono definiti cani sciolte, persone impazzite, zombie, come dice Michele Serra su Vanity Fair, insomma persone che... Adesso l'ultima moda, sai qual è, Lucadini? L'ultima di cui si parla, la radicalizzazione istantanea. Cioè persone che fino a 15 giorni prima erano persone che sembravano normali e poi in 15 giorni no, la radicalizzazione istantanea. La verità è che forse non ci capiamo quasi nulla. Di che ma cosa sono i famosi vecchi 15 minuti di celebrità. Sì. Solo che social in media caso... aiutano, insomma, c'è tutta una serie di cose, però insomma è evidente che questi sono tutti dei personaggi, come chiamarli? Dire pazzi è riduttivo, veramente sminuire la questione. Sì, chiaro. No, ma è riduttivo, è che perché quel criminale di Nizza, Alessandro, non partiva da un quadro come dire, perfettibile come credente e osservante, visto che si vuole arrivare anche a questo, no? Chiaramente mistificando il principio di una religione che tutto insegna fuorché quello che poi viene messo in atto. Insomma, era uno che aveva un curriculum che avrebbe fatto drizzare i capelli in testa a qualsiasi persona che considerasse regole da rispettare quelle che lui non rispettava, insomma. Sì, dopodiché ti svegli e punti le giostre dove ci sono i bambini col tuo tir gridando Allah Akbar, cioè capisci che appunto è tutto, vabbè, è tutto dove potevano esserci, con noi potevano esserci i suoi bambini, anzi è bizzarro che non ci fossero, l'ha raccontato la moglie. Esatto. Allora facciamo così, dobbiamo dare le informazioni sul traffico, poi rientriamo qui, state con noi. Alino, manda il traffico, dammi il traffico, por favore, il traffico. Ciao Milan, ma in Turchia tutte quelle bandierine già pronte o mangiate alla gente, come mai erano già pronte? Io non voglio la Turchia nella comunità europea, non voglio nella comunità europea il cavallo di Troia dell'estremismo islamico, fuori dalle balle. Mi auguro presto Trump presidente degli Stati Uniti, visto quello che ha combinato l'attuale presidente, veramente, che ha devastato il mondo. L'agenzia delle entrate su Facebook, ma non era un social network? Beh, tanto sociale proprio l'agenzia delle entrate non lo è. E vabbè, questo nostro ascoltatore non apprezza la pagina Facebook dell'Agenzia delle Entrate. Io ho sempre detto già da ieri che non vorrei fare il moderatore di quel sito, sai Luca, quelli che devono controllare che non ci siano delle cose fuori posto. Cioè, esatto, qui vestito come un palombaro mi presento, no, a fare il moderatore della pagina. Vorrei fare questo lavoro, il moderatore della pagina Facebook dell'Agenzia delle Entrate. Guarda che giorno e notte c'è da controllare, cara Paola, giorno e notte. Tu cosa diresti? Vestiti da palombari. Cosa scriveresti? Buon lavoro, buon lavoro. Beh, non lo so. Buon lavoro. Allora, dedicato a Paola Saluzzi, arriva un sms: al mattino non mangio perché penso a te, al giorno non mangio perché penso a te, alla sera non mangio perché penso a te, di notte non dormo perché ho fame. Volevo arrivare. Cara Paola. Ringrazio, ma insomma, è un modo fantastico per fare la dieta, ma sì, esatto, la notte poi si apre il frigorifero, aiuto. Sì, bene, bene, quando arriviamo, bene, a Trump? Bene, quando bene. Arriviamo a Trump? Ah, vuoi dire, dai, dici qualcosa di Trump, dai, dici qualcosa, no, della copiona, no. La copiona ha copiato, non lei, perché le scrivono ovviamente i discorsi. Sul look della signora e sulla sua... No, ma ha detto delle cose uguali a quelle che disse Michelle Obama, la copiona. Allora, mi appello al nostro direttore Luca. Sì, da una parte è... sono parole di buon senso, no? Sì. Quello che mi hanno insegnato i miei genitori, però copiate, i valori. Però non sue. Però purtroppo, come dire, copia e incolla, non avete riscontrato? No, proprio me. Sì, ma io devo dire... Come lì... si diceva una volta, me la C e me la V. Sì, sì. Solo che lì la colpa chiaramente è di chi non è sua, è di chi le ha scritto i discorsi, perché non è anche Trump, non è che si scrive i discorsi in questa situazione, ci sono quelli che te li scrivono. No, e pare ovvio, che Trump sia infuriato dietro le quinte, perché beh, è una gaffa abbastanza clamorosa, no? Prendere... però fa parte del personaggio del suo staff, cioè di copiare una cosa di cialtroni. Detto questo, il dramma è che non gliene fregherà niente a nessuno. Ma sì, ma... non gliene fregherà niente. Ma perché poi ci sono frasi assolutamente innocenti, cioè Melanie Trump ha copiato da Michelle Obama alcune frasi sul futuro dei figli, sulla bellezza del credere nelle opportunità, cose molto americane, cose molto... Magari anche rileggersi, no? Il discorso della moglie di Michelle Obama, insomma, non sarebbe... Ma il dramma è quello che qualcuno l'avrà letta e ha detto: belle queste! Belle queste frasi! Fammele copiare queste! Belle queste! Il problema è... La cosa più bella era che ovviamente all'interno di questa convention non si potesse entrare con lampadine, sì, alla mano. Sì, si sa che noi viaggiamo sempre con lampadine in mano, bombe. Sì. Proprio la lista era questa, bombe. Bombe. Però un bel fucile a tracolla, sì. Ma un fucile a tracolla a carico. Sì. Sì. Questa cosa è molto assurda per noi occidentali, no? Eppure Luca, in America, tu che la frequenti un po' più di noi, in alcune zone dell'America è considerata proprio l'emblema della libertà, no? Ma sì, ormai diciamo che c'è stato un lavaggio del cervello collettivo ad opera di una lobby e di un partito che l'ha sostenuta. La verità è questa, perché poi la gente crede anche quello che sente raccontare, e quindi ci sono, diciamo, io non ce l'ho con l'americano medio che va in giro col fucile, ma con chi l'ha sfruttato cinicamente, gliel'ha messo in testa. Se l'inferno esiste, questi qua ci andranno molto rapidamente. Oh, eccolo lì, il giudizio sfumato del nostro direttore. Eh no, perché non si può giocare con... cose. Ma no, ma è chiaro, è chiaro. Giocare sulla paura delle persone. La paura ci piace così, ci piace così. Oh, però mentre in tutto il mondo, insomma, è impegnato tra la Germania, la Francia, giusto per citare solo gli ultimi, la Turchia, gli Stati Uniti, eccetera, noi appunto, come dice Iena, siamo qui tutti a dedicarci a, esatto, all'Italicum e cose, cioè c'è Schifani che forse lascia il nuovo centrodestra. Signori, fermatevi tutti, tutti fermi in questo momento, tutti accostate le macchine. Se siete al lavoro, avete diritto, come i giapponesi che fanno lo sciopero bianco, 2 minuti di blocco così totale sul lavoro. Paola, immobilizzati. Schifani lascia il nuovo centrodestra, forse. Bisogna rifare i conti. Bisogna rifare i conti, sì. In effetti io quando sento il nome di Schifani devo a prescindere accostare la macchina. Ma siete proprio terribili. Due ragazzi terribili. No. Vabbè, però attenzione. Siamo anche per questo, ma terribili. C'è questa grande novità. Ah, finalmente io sono contento, ecco, perché come ho annunciato sì, l'ho già annunciato su Twitter, è un momento importante, perché sono le 6:54 minuti, io non solo non ci capisco niente, non voglio dedicarmici neanche 10 secondi. Ma fortunatamente Luca Dini e Paola Saluzzi sanno tutto del Bersanellum e adesso potranno spiegare di Pokémon Go. Potranno spiegare agli italiani. Paola Saluzzi, cominci lei, candidata, ci esponga brevemente per tutti gli italiani che sono con penna in mano e foglio per appunti i concetti del Bersanellum, così sappiamo. Allora, il Bersanello, dicesi Bersanello. Dica il candidato. Affermazione. C'è il Bersanellum, poi il Mattarellum 2.0 e l'Italicum. Forza, analogie e differenze. Allora, il Milanellum, vorrei lanciarmi direttamente sul Milanellum e mi appello. Ma quando è che parte, cioè, la sigla? Quando ricomincia? Ecco, io sento. Manca poco. Usare la giustifica. Manca poco, esatto. Allora, Luca Dini si giustifica. E si gioca la prima delle due giustificazioni della stagione. E Paola Saluzzi si inventerà. Io che invece mi appello al Milanellum. Ti appello al Milanellum, ragazzi. Il Bersanellum. Io non lo so, ripeto, l'ho detto in maniera forte anche nei giorni scorsi. Se c'è una cosa di queste tragedie epocali che ci stanno raccogliendo in questi giorni, una cosa che almeno ha un riflesso positivo sui giornali, che non si parla di queste cose, o se ne parla sempre meno. Luca, a te mancavano? No, a parte che io veramente prevederei l'arresto in flagrante per chi conia questi temi. Basta. Forse è stato Bersani stesso, quindi dovremmo arrestare. Non lo so. Ma che se è una cosa seria la fa diventare subito una specie di non so cosa sembra. Sì, il Bersanellum. Un semifreddo, dai, cos'è? Dai. Un semifreddo, ragazzi, ma stamattina vi vedo particolarmente carichi. Adesso, Stefanisco, perché il primo Ellum che è partito ha tirato giù tutti gli altri. E questo è il problema, no? Cioè, il primo che ha detto Ellum e via. Certo, è stato, credo, Sartori, il professor Sartori, che sarà stato il primo. No, da qui all'arresto non lo so. No, vabbè, vuoi parlarci del Pokémon Go, caro Luca? Ne fai anche una pagina. Temevi questa. È il classico, non voglio neanche entrare perché sono. No, infatti, ma neanch'io. Vuoi spiegarci allora chi è Michele Riondino? Il giovane Montalbano, che certo, che è in copertina di Vanity Fair. Vabbè, questo è perché. Mentre tu, Paoletta Saluzzi, quando vai avanti? Fino a quando vai avanti? Fino a quando vado avanti a cercare Pokémon? No. Sì, per me è per quello, guarda. Ma voi li state cercando? Ma no, guarda, oggi c'è già la carta costa assegnata per un articolo di Libero che li ha trovati alla camera. Ma non solo un Pokémon, dice. No, cos'è che ha trovato? Mamma mia, guarda, hanno trovato. Porca c'è la miseria, dov'è? Sono dei Pokémon che si chiamano i cani leggendari. Sì, no, hanno trovato, aspetta, hanno catturato alla camera, mica un parlamentare, no, un Pidgey. Cos'è un Pidgey?